Questo è il rituale del sacrificio di riparazione. È cosa sacrosanta. Nel luogo in cui si immola l'olocausto, si immoli il sacrificio di riparazione e il suo sangue sia sparso intorno all'altare. Ne sarà offerto tutto il grasso, la coda e il grasso che copre gli intestini, i due reni e il grasso che sta sopra di essi, sopra i lombi, e la massa grassa sul fegato che si staccherà sopra i reni. Il sacerdote la faccia fumare all'altare come dono al Signore. È un sacrificio di riparazione. Ogni maschio fra i sacerdoti lo mangi. In luogo sacro sia mangiato. È cosa sacrosanta. Come per il sacrificio espiatorio, così si faccia per il sacrificio di riparazione. La norma è unica per essi. La vittima con cui il sacerdote ha fatto l'espiazione spetta a lui. Se il sacerdote ha offerto l'olocausto di qualcuno, la pelle dell'olocausto che ha offerto spetta a lui. Ogni oblazione che è cotta al forno e ogni cosa preparata in pentola e alla piastra spetta al sacerdote che l'ha offerta. Ogni offerta con olio o senza spetta a tutti i figli di Aronne indistintamente. Questo è il rituale del sacrificio di comunione che si offre al Signore. Se lo si offre come ringraziamento, si offrano, oltre al sacrificio di comunione, pani azimi intrisi d'olio e gallette azime unte d'olio e fior di farina mista con olio. Si aggiungeranno all'offerta le focacce di pane fermentato insieme con il sacrificio di ringraziamento. Di ognuna di queste cose una parte si presenterà come prelevamento per il Signore. Apparterrà al sacerdote che avrà sparso il sangue del sacrificio di comunione. La carne del sacrificio di ringraziamento, che fa parte del sacrificio di comunione, sia mangiata nel giorno stesso in cui è offerta. Non se ne lasci fino al mattino seguente. Se il sacrificio che si offre è per un voto o per un'offerta spontanea, sia mangiato nel giorno in cui è offerto il sacrificio e l'indomani. Ma quanto resta della carne della vittima sia bruciato col fuoco il terzo giorno. Se si mangia carne del sacrificio di comunione il terzo giorno, l'offerente non sarà gradito. Non se ne terrà conto a suo vantaggio. È carne avariata, e chiunque ne mangi porterà il peso del suo peccato. La carne che avrà toccato una qualsiasi cosa impura non sia mangiata, sia bruciata con il fuoco. Chiunque è puro può mangiare la carne del sacrificio di comunione, ma chi è in stato di impurità e mangia la carne del sacrificio di comunione offerto al Signore, sia eliminato dal suo popolo. Chiunque tocca una qualsiasi cosa impura, sia impurità di uomo o di animale o di qualsiasi rettile, e mangia della carne del sacrificio di comunione che appartiene al Signore, sia eliminato dal suo popolo. Il Signore disse a Mosè: «Parla ai figli di Israele e di loro: il grasso del toro, del montone e della capra non mangiatelo. Del grasso di un animale morto o sbranato se ne faccia qualsiasi uso, ma non si mangi. Chiunque mangia il grasso di un animale che si può offrire in dono al Signore come sacrificio consumato col fuoco sarà eliminato dal suo popolo. Non mangerete sangue ovunque voi abitiate, né di volatili né di animali. Chiunque mangerà sangue sarà eliminato di mezzo al suo popolo». Il Signore disse a Mosè: «Ordina ai figli di Israele: chi offre un sacrificio di comunione al Signore porterà una parte del suo sacrificio di comunione come offerta al Signore. Con le sue proprie mani porterà i doni al Signore. Porterà il grasso assieme al petto, il petto per agitarlo nel gesto di presentazione al Signore. Il sacerdote faccia fumare il grasso sull'altare e il petto appartenga ad Aronne e ai suoi figli. La coscia destra delle vittime dei sacrifici di comunione la darete come prelevamento al sacerdote. Colui fra i figli d'Aronne che offre il sangue dei sacrifici di comunione riceverà la coscia destra come parte sua. Infatti il petto del rito della presentazione e la coscia del prelevamento li ho presi dai figli di Israele fra i loro sacrifici di comunione e li do ad Aronne sacerdote e ai suoi figli. Legge eterna per i figli di Israele. Questa è la parte spettante ad Aronne e la parte spettante ai suoi figli fra i doni offerti al Signore dal giorno in cui li offrì per essere sacerdote del Signore. È quello che il Signore ha comandato di dar loro il giorno in cui li ha consacrati fra i figli di Israele. Legge eterna per tutte le vostre generazioni. Questo è il rituale dell'olocausto, dell'oblazione, del sacrificio espiatorio e del sacrificio di riparazione e di investitura, e del sacrificio di comunione, rituale che ha comandato il Signore a Mosè sul monte Sinai, il giorno in cui egli ha comandato ai figli di Israele di offrire le loro offerte al Signore nel deserto del Sinai.